Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Giuseppe Sala, 57 anni, milanese bocconiano, entra in Pirelli e fa carriera nel 2006, direttore generale di Telecom Italia, presidente del gruppo A2A, tifoso dell'Inter, gioca a calcio, scia. La sua passione è la vela. A vela ha fatto il giro del mondo. Nel 2009 è direttore generale del Comune di Milano con il sindaco Letizia Moratti. Dal maggio del 2013 è commissario unico per l'Expo. I problemi tra arresti, gufi, appalti sono stati tanti. Adesso che ha vinto la sfida di Expo e si è candidato a sindaco di Milano, si scopre che per gli appalti dati direttamente ai titoli di Farinetti è stato inquisito, ma inquisito a sua insaputa. Ecco, dottor Sala, indagato a sua insaputa, che effetto le fa? Ma nessuno, poi è una cosa che ormai è passata, quindi forse mi sarei agitato se l'avessi saputo il momento. Ma i suoi avversari però dicono che semplicemente è stato protetto per non rovinare il successo dell'Expo, è possibile? I miei avversari ne dicono di ogni colore in questo momento, il punto è, credo di fare abbastanza paura, in particolare al centrodestra. Senta, ma quando Renzi ha ringraziato la Procura di Milano per la sua sensibilità istituzionale, perché l'ha fatto allora? Ma bisogna chiederlo a lui, di certo noi non è che non siamo stati controllati dalla Procura di Milano, anzi, per cui quindi direi che sono stati molto tempestivi. Senta, adesso emerge un'altra indagine promossa dalla DDA di Milano sulle presunte infiltrazioni mafiosi nel lavoro dell'Expo. Lei ne sa qualcosa? No, fonti giornalistiche, però non ne so nulla. Senta, dottor Sala, si è speculato anche sui lavori nella sua casa al mare, fatta da un architetto che poi ha lavorato per l'Expo. Come è andata esattamente? E qui siamo al colmo. De Lucchi è un architetto che a Milano ha fatto quasi tutto, e non solo a Milano. Dopodiché, per la mia casa, quindi un appartamento da circa 160 metri quadrati, gli ho dato 70.000 euro. Ho il dubbio che gli abbia dato troppo, non troppo poco. Senta, però emerge, e questo lei non l'ha detto ancora, che il suo architetto ha ricevuto dalla Fiera di Milano 500.000 euro per lavori commissionati e realizzati proprio per l'Expo. No, guardi, noi alla Fiera di Milano abbiamo dato circa, credo, 35 milioni per vari lavori. Poi cosa loro fanno? Come e che i professionisti prendono è cioè lei non loro. Sa che ma no ci mancherebbe noi abbiamo dato anche 50 e passa milioni a Metropolitana Milanese. Cosa fa Metropolitana quindi Milanese? Quindi non ne sa niente di questi 500.000 euro che fossero finiti al suo architetto. Ma no, il mio architetto, dai, De Lucchi è un architetto internazionale. No, al suo architetto, ma si aspettava una partenza così violenta della campagna elettorale? Sì, no, non è che scendo da Marte, quindi violenta, però no, sono abituato. Sì, cioè dopo gli arresti all'Expo, dopo pochi giorni, non ne fa più paura nulla? Eh? No, diciamo che quando vanno sul giudizio personale, ecco, a me interessa una cosa: se mettono in discussione la mia onestà e il fatto che io non ho mai tirato su una penna, questo è grave. Per il resto si attrezza a rispondere. Senta, c'è però anche chi invece la stima moltissimo fin da subito e la vede bene come sindaco di Milano. Senta questo. Voterà per Sala, che è stato un suo collaboratore? Certamente sì. Sì, e pensa che può essere l'uomo giusto? Penso di sì, è una persona per bene, una persona seria. Ma l'Expo cosa ha significato per Milano? Lei che è un milanese? Ha significato un recupero della fiducia nel futuro. Ecco, soddisfatto l'appoggio di Tronchetti? No, senz'altro, un buon rapporto con Tronchetti. Sì. Lo dice incerto. No, ho fatto il suo assistente, si figuri. Perché mi ricordavo di quando mi faceva lavorare fino a mezzanotte. Ah, ecco, adesso lavora fino alle 2. Sì. Senta, dottor Sala, lei è stato, abbraccio destro anche di Letizia Moratti, anche lei lavora tanto, sindaco di Milano. Eravate in sintonia? Su alcune cose sì, su alcune no. Per esempio, il mio programma di mettere mani alle partecipate e creare una super holding del comune è stato bloccato dal sindaco di allora. Quindi lei non ha lavorato bene con la Moratti? No, per certi versi sì, ci mancherebbe. Ma guardi, che voto le dà come sindaco? 6,5. 6,5. E a Pisa Pia? 7,5. 7,5. Ma la differenza principale fra i due qual è? Beh, Pisa Pia è molto più attento al contesto che sta intorno a Palazzo Molino, molto coinvolgente, ha riportato alla politica a Milano. Ecco, Lei adesso dice pubblicamente che già 5 anni fa aveva votato per Pisapia senza nessun problema? Ma no, ma io ho sempre votato a sinistra, non è che ci mancherebbe altro, quindi lo dico senza problemi, certo. Ma la Moratti lo sapeva che lei era di sinistra? No, però qui intendiamoci, se uno fa il tecnico, fa il tecnico. Questa storia dei tecnici di parte è una balla per me. No, ma io le chiedo, lo sapeva però che lei era un uomo di sinistra? Nessuno me l'ha mai chiesto e Moratti io... neanche non gliel'ha mai chiesto? No, no. Neanche quando l'ha candidata a commissario dell'Expo? Beh, credo che abbiano fatto un buon affare a candidarmi allora a commissario dell'Expo. Io non ho mica detto di no, le chiedo se lo sapeva la Moratti. Senta, un tecnico di sinistra al servizio di un sindaco di destra, così insomma sostanzialmente. È così. Senta, anche Crozza ha apprezzato questo suo ruolo, senta un po'. Tra l'altro lui un po' di esperienza nel comune ce l'ha perché è stato direttore generale ai tempi di Letizia Moratti, era il suo braccio destro. E tu PD non vuoi farmi sindaco il braccio destro della Moratti? Sarebbe stato meglio proporre direttamente la Moratti, però come segnale forte anche Sala va bene. Beh, abbastanza spiritoso. Spiritoso, Crozza spiritoso. Senta, Sala, lei è l'uomo ideale per fare di Milano il laboratorio del Partito della Nazione di Renzi, tutto sommato, con questa sua doppia natura, diciamo, di sinistra, di tecnico, che va bene, che tutti lo vogliono. No, ma io sono una persona molto indipendente, se non avrei... non sarei sopravvissuto a 4 presidenti del Consiglio, 2 sindaci, 2 presidenti della Regione. Quindi io spero che Milano voglia la mia indipendenza prima di tutto. Ma è un obiettivo il Partito della Nazione? No, assolutamente. No. Lo nego recisamente. Io lavoro perché? Perché lavoro per Milano. Poi chissà cos'è il Partito della Nazione. Senta, dall'Expo è uscito vivo, anzi è uscito vincitore. Oltre ai suoi collaboratori, chi sente di dover ringraziare? Cantone, soprattutto il presidente Cantone, anche lì. Avremmo fatto degli errori, avremmo passato problemi, però a un certo punto quando il governo ha messo una mano forte a nostra protezione le cose sono cambiate. Ma lei rischia di trovarsi come sindaco a dover gestire il dopo Expo in qualche modo? Beh, rischio può anche essere può un'opportunità. Capitare. Sì, può essere un'opportunità. Può essere un'opportunità perché c'è l'idea di che fare? No, credo che il progetto di portarci il campus universitario e il centro di ricerca sia ottimo. Resta tanto spazio poi ancora. Infatti, 1.000.000 metri quadrati, 500.000 passa vano verde, però l'importante è partire con un progetto, poi ne seguiranno altri. Senta, qual è stato il momento più difficile? Indubbiamente maggio del 2014. Quando le hanno arrestato i collaboratori? Assolutamente sì. Un colpo inatteso. Inatteso. Senta, il presidente Renzi parla dell'Expo come di un trionfo dell'Italia contro i gufi. Ecco, ma a chi glielo dà lei il premio del gufo più gufo? No, guardi, io non è che mi piace molto anche un po' questo tema dei gufi. Mi piace proprio il fatto che invece gli italiani si sono raccolti intorno all'Expo. Guardo chi è a favore più che chi è contro. Quindi non ci sono stati i gufi che hanno dato particolarmente fastidio? No. È già un politico perfetto. Senta, adesso che è finito tutto, ci dà i numeri finali veri? Cioè visitatori, costi, bilancio? Allora, 21 milioni e 400 e passa mila ingressi. Sì. Poi abbiamo avuto un patrimonio netto finale, che poi è il numero che conta, cioè dei soldi che mi sono stati assegnati ne abbiamo avanzati 14 milioni. Cioè, ricordo che... Di quanti soldi? Quanto le hanno dato? Di circa, abbiamo investito 1.240 milioni. 1.240 milioni e ne avete avanzati? 14. Ecco, avendo tagliato io, non altri, prima 300 milioni, quando capivo che l'area che tirava era quella di difficoltà nelle risorse. Ecco, no, per dire, mi consenta solamente. No, prego. Hannover, nella grande Germania, un Expo, l'ultimo grande Expo europeo, 1 miliardo di buco. Noi in pareggio e quanti milioni di spettatori a 9? 18. E voi 21? Sì, ma intanto per dare un po' di misura ai Italia e Germania. Questo è giusto, il lavoro va riconosciuto per quello che è. Nel 2014 però, in un'intervista a Lucia Annunziata, lei ha detto non farò mai politica. Sono andato a risentirlo perché volevo sentire il tono della voce, ma proprio convinto in un modo pazzesco. Ma chi l'ha convinta a cambiare idea? La gente. I 6 mesi di Expo, questa immersione nell'umanità, lei doveva venire in Expo e sentire quanta gente mi diceva cosa fa dopo e quanta gente mi spingeva. La gente. Il fascino di Renzi anche. Il fascino di Milano, dai. Fascino di Renzi non ha contato niente. Ma no, io con Renzi e Nughi avevo un buon rapporto, lui mi stima, io lo stimo, dopodiché lui non me l'ha mai chiesto, sia chiaro, lui non, gli ha non mai l'ha chiesto. Mai chiesto di fare. Lei che è andato a dirgli io vorrei candidarmi? No, io ho parlato con i locali, diciamo così, con la gente che sta a Milano. Ma che cosa le piace di più di Renzi? È determinato, e ha una grande voglia di cambiamento. È di meno? E di come meno? Me privilegio i giovani. È di meno? Ma penso che potrebbe allargare un po' più il suo livello di consenso e il suo team che gli sta intorno, e gli sarebbe molto utile. Pisapia, che è il sindaco uscente, che lei ha votato, dice che fare il sindaco di Milano è uno sport estremo. Cioè bisogna amare il rischio, no? No, è faticosissimo, è sì, faticosissimo. Certamente Pisapia lo sa meglio di chiunque altro. Perché secondo lei non si ricandida? Credo per questo, credo perché sia veramente stanco. Sì. Però non mi pare che l'appoggi tanto, o sbaglio? Beh, insomma, deciderà quel che vorrà decidere. Io vado avanti per la mia strada. No, però sentendo l'aria... No, va bene. Non lo nego. Rimane il fatto che con Pisapia ho avuto un buon rapporto. Abbiamo lavorato insieme 4 anni poi. Senta, se l'aspettava più semplice il percorso delle primarie, avrebbe preferito non farlo? Ma guardi, io a un certo punto ho capito che per candidarmi devo fare le primarie. A quel punto non sto più a pensare e faccio. Si fanno. E si presenterà a tutti i confronti pubblici? Sì. Ma anche perché l'ultimo che abbiamo fatto mi pare di essere uscito andata molto bene. Sì. Ma qual è l'avversario che teme di più? Maiorino. È un politico, sa parlare alla gente, bravo. Senta, la cosa migliore che ha fatto Pisapia qual è? Quello che dicevo prima, veramente un'apertura alla città, al terzo settore, a tutto il mondo che ha accompagnato la politica e poi una giunta dalle mani pulite, onestamente. E quello che avrebbe dovuto fare, secondo lei, ma non è riuscito a fare o non ha fatto? Beh, lo dice anche lui, insomma, la riforma della municipalità e quindi le zone. Io credo che ci sia bisogno di città metropolitana, ma anche di andare a fondo nella città e lavorare per zone. Ma lo dice anche Giuliano. Senta, qual è il punto del suo programma, un po' mi sembra che lo dica, col quale pensa di vincere primarie e diventare sindaco? Due cose. Uno, casa senz'altro. C'è un problema importante a Milano. Abbiamo tante case e appartamenti da 8-9 mila al metro quadrato, non abbiamo un livello inferiore, e il problema dei quartieri popolari. Secondo elemento, creare lavoro puntando molto molto sui giovani, sulle imprese giovani. Ma puntare lavoro sui giovani, imprese giovani, cioè è uno slogan? Non è uno slogan, bisogna fornire le condizioni affinché Milano sia ricettiva per le nuove iniziative. Cioè? Beh, facciamo un esempio, ecco. Guardi cosa hanno fatto in Cile, a Santiago del Cile, questo programma che si chiama Startup Cile, con non molti soldi hanno aperto veramente la città a nuove iniziative. Io punterei del molto tipo? Su quello. Tipo? No, proprio startup. Poi basandosi, start-up. A Milano c'è un tessuto straordinario. Certo. Cioè, favorisce le startup. Ma pensi alla moda, noi non dobbiamo guardare Dolce & Gabbana e Armani, ma a Milano intorno ci sono una quantità di aziende nel settore della moda micro che si possono sviluppare. C'è un'altra Milano da bere vorrebbe? No, voglio una Milano che vede, voglio un mondo che veda Milano come l'ascensore sociale. Ecco, Passera dice simili cose, però non tanto diverse. Soprattutto sulle case, dice: la situazione delle case popolari non è degna di una città europea del XXI secolo. Ha ragione su questo punto. Ma guarda, non è che lo dice solo Passera, lo dice tutto. Persino Berlusconi è andato in auto con il suo predellino in periferia. Il punto è chi sarà il più capace di farlo, a organizzare, a raccogliere i soldi e a fare la cosa. Beh, lei raccoglie i soldi, è stato bravo. Sono stato bravo. Va bene, allora potrebbe servire bene. Ecco, la Balzani, che invece mi pare non sia la principale antagonista secondo lei, dice che i soldi che lei vuole spendere per riaprire i navigli, anche lei dice che bisogna spenderli per le case popolari. Ma io ho detto una cosa molto precisa, e cioè i navigli sono un sogno, non è la priorità numero uno. Ed oggi non è finanziabile, quindi non è vero quello che dice la Balzani. Cioè non è vero che lei vuole riaprire. No, voglio, ma oggi, come ho detto, se vincerò le primarie mi metterò a studiare per capire come si può fare. Perché li vuole riaprire? Perché la storia di Milano e il suo territorio è radicata nell'acqua. Sarebbe un discorso lungo, ma noi non saremmo mai quello che siamo se i nostri antichi non avessero così sapientemente usato l'acqua. E l'unico modo per abbellire veramente Milano, per me, è la riapertura dei navigli. Mi dice in poche parole, un po' lo sta dicendo, ma come sarà la Milano di Beppe Sala? Uno slogan, ma che non sia solo slogan, che sia anche un po' concreto. No, è uno slogan, ma è innovazione e inclusione, vuol dire veramente la capacità di creare nuovo lavoro, nuove condizioni, e inclusione vuol dire appunto pensare che o Milano cresce omogeneamente oppure ci troviamo in una situazione tipo Parigi oggi, con un rischio notevole nelle periferie. Di avere nelle periferie veramente la rivoluzione. Sì. Ecco, non ha paura. Ecco, inclusione rispetto agli immigrati cosa vuol dire? Vuol dire che oggi già ci sono gli immigrati, bisogna dare opportunità, bisogna lavorare col welfare, bisogna richiamarli al loro dovere. Ma lei pensa che Schengen è a rischio? No. Follia. Noi può essere un'Europa senza Schengen? Ma non dobbiamo veramente rischiare con questi populismi che vediamo crescere anche a Milano. Senta, non ha paura però che senza un PD compatto alle spalle il rischio di fare la fine di Marino c'è? No, guardi, oggi il PD compatto non ce la fa nessuno, non ce la sta facendo purtroppo neanche Renzi, quindi io lo sapevo e me ne faccio una ragione e vado avanti. Certo che ho buona parte del PD che è con me. Però la fine di Marino non le suggerisce niente, non le fa paura? No. Poi quello io guardo me stesso e quindi credo di essermi molto preparato. Uno può criticare perché ho lavorato per la Moratti, ma conosco la macchina comunale. Perché criticare? No, quello diceva lei. No, io non ho mica criticato, ho chiesto. Fa lo spiritoso, però. No, Pisapia dice che lui si riserva però di dire la sua su programmi e persone. È un segnale buono per lei o no? Come lo interpreta? No, ma che Pisapia abbia in qualche modo lanciato la candidatura a Banzani ci sta, ma non è inequivoco. Quindi ma perché l'ha lanciata secondo lei? Bisogna chiederlo a lui. Ma non ha un'idea, ne avrete parlato? No, bisogna veramente chiederlo a lui, proprio non lo so. Non ne avete parlato? No, non abbiamo parlato. Mai? Mai. Ma c'è un sindaco milanese del passato al quale in qualche modo piacerebbe ispirarsi? Tognoli, grande umanità, grande capacità di dialogo, molto amato della città. Sarebbe un sogno uscire da sindaco amato come Tognoli. Secondo lei qual è la qualità principale che deve avere un sindaco di Milano? È una città particolare, insomma. Dipende dal momento storico. In questo momento visioni e relazioni internazionali e capacità di fare le cose. Come dicevamo prima, il problema non è individuare il problema, il tema non è individuare è farle. Certo, relazioni internazionali, l'Expo le ha dato una grandissima vetrina, diciamo, è un'opportunità. Moltissimo, l'ho sempre avuto, però indubbiamente ha consolidato questo, molto. Certamente, ecco. Lei quando ha capito di avere queste qualità, quando diceva che non voleva far politica, no. Ma no, lo sapevo, resistevo perché venivo da 5 anni estremamente faticosi. Io guardi adesso senza fare il tragico, l'ultima vacanza l'ho fatta precisamente ad agosto del 2013, sono molto stanco, ciononostante sono qui. Senta, Stefano Folli su Repubblica ha detto che lei per il PD e per Renzi è molto più di un candidato, è l'idea di un modello di sinistra, dirigente post-politico di alto profilo tecnico. Si riconosce? Sì, in questo le piace questa cosa? Mi piace, diciamo. Ringrazio Folli. Va bene. Berlusconi in realtà invece dice Beppe Sala, un uomo di centrodestra, è nostro, altro che PD, me l'ha presentato Brunner Molli, vero? A dire la verità, Brunner Molli ha segnalato il mio nome alla Moratti, ma non me l'ha certo presentato. Faceva selezione di classe dirigente Brunner Molli per il centrodestra, faceva, assolutamente, sicuramente. Insomma, la vogliono tutti, è bello però essere voluti da tutti, no? Ognuno gli vuol mettere la giacchetta. Ma no. Il mio sistema di relazione è sempre stato nella sinistra. Chiedano pure a Bersani cosa pensa di me, a Letta cosa pensa di me, assolutamente. Bersani, Letta, quindi tutto, maggioranza e minoranza del PD, tutto, va bene. Senta, Berlusconi però ha parlato anche di una operazione verità che sta per partire nei suoi confronti. La teme, non so, che cosa può essere? Ma non lo so, è un po' sgradevole questa operazione del giornale sul tema dell'architetto e via discorrendo. Ma perché sgradevole? Ma no, sgradevole perché, ripeto, però effettivamente un po' fa effetto che questo signore che gli ha ristrutturato la casa ha poi 500... Ma questo signore ha lavorato in tutto il mondo e la ristrutturazione della casa, ripeto, io non... Forse non doveva fare a ristrutturare tutto lì. Gli ho dato 70.000 euro, fatture e documenti. Contento lei, non c'è problema. Senta, lei conosce bene Berlusconi? No, l'ho visto veramente bene una volta, vis-à-vis, una volta sola quando è venuto in Expo. Non l'ho mai incontrato prima, se non... E come lo giudica? Che valutazione dà di Berlusconi? È stato un buon imprenditore. Da politico ha individuato i problemi, ma non è stato in grado di risolverli. Senta, lei di sé dice, l'ha detto, dal punto di vista dell'onorabilità sono sicuro. Se poi ci sono problemi amministrativi, posso anche tirarmi indietro. Ecco, ma perché? Cosa teme? Temo un fatto specifico. Lei, c'ha Cantone. Che cosa... Sì, ma chi gestisce la cosa pubblica lo sa che può succedere di tutto, ripeto. Io conto sulla mia sulla mia totale onestà. Dopodiché però io non sono mai stato attaccato alla sedia. Tanto è vero che quando si è verificato i fatti di maggio, io ho offerto subito le mie dimissioni all'attuale sindaco Pisapia e anche al presidente del Consiglio. Mi hanno detto vai avanti, sono andato avanti. Senta, ma quindi non teme nulla, sostanzialmente la Cantone la garantisce sul fronte della legalità, lei la legalità ce l'ha nel DNA e quindi no, problemi, sono non capisco tranquillo. Allora cosa possono essere questi problemi amministrativi? Beh, ripeto, chi gestisce cosa pubblica? Li caccia, se trova qualcuno che non va bene caccia. Capito. Ripeto, comunque sono estremamente tranquillo. Senta, le faccio l'ultima domanda. Lei dice appunto la legalità è il mio faro. Ecco, mi dice però come si fa perché le mani non si sporchino mai? Cioè c'è un metodo, una tecnica, una modalità? Naturalmente i ladri possono esserci dappertutto, però identificarli in tempo, buttare e cacciarli è compito poi di chi ha il potere. Quello che abbiamo fatto con Cantone nell'ultimo anno, esaminare preventivamente ogni gara e creare delle commissioni di gara con tecnici esperti ed esterni alla società appaltante. Così faremo anche il Comune di Milano se diventerò sindaco. Però per esempio i titoli non è andata così. No, i titoli è stata giudicata dal Consiglio di Amministrazione di Expo come l'unico possibile fornitore di servizi di ristorazione con un brand conosciuto in tutto il mondo e quelle dimensioni. Quindi l'ha giudicata il Consiglio di Amministrazione così. Senta, un'ultimissima. Un giorno in un'intervista che ha fatto a me mi ha detto, meglio traversare in solitaria, in barca a vela, l'Atlantico che avere a che fare con la politica. Io insisto perché vorrei capire dov'è che si è convertito, ha capito? No, gliel'ho detto, mi sono convertito durante il semestre dell'Expo, dopodiché qui siamo e quindi andiamo avanti con ottimismo. Sto giro del mondo in barca a vela lo rifarà? Penso di no. Grazie, a auguri. Grazie. 800 24 numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Pubblici. Mix 24. Vabbè, deciso, chiaro. Che dici Mario? Il titolo dell'intervista come lo faresti? Farei un giochino. Potrebbe essere sala da ballo oppure sala da sballo, vediamo. Dipende anche da come fanno le lezioni. E dagli argomenti. E tu Pietrangelo? Più che un titolo, ascoltandolo, da come prende le distanze, da come tratta Letizia Moratti, mi fa venire in mente un proverbio siciliano, ma lo dico direttamente in italiano. E cioè che chi di un asino ne fa un cavallo, il primo calcio se lo prende lui. E quindi l'errore l'ha fatto la Moratti. E certo, lui sarà il risultato della Moratti, un po' come Ignazio Marino fu l'ultimo danno di Alemanno, il nuovo danno della Moratti sarà appunto Sala. Però invece non è che sta cambiando proprio la politica, questa antropologia nuova di leader politici, o comunque di amministratori, perché una città va amministrata ancora più. Milano ha bisogno di un gestore. Un gestore, a naso, lui mi sembra. Insomma, alla fine l'Expo è andata bene. Sì. Ma vediamoli questi numeri. Io leggo il Fatto Quotidiano e non mi pare. No, tu leggi il Fatto Quotidiano e io leggo il Corriere, mi sembra che. Però posso dire. Secondo me Milano con Sala sarà come Roma con Ignazio Marino. Sono troppo diversi. Dai. Uno è un manager, l'altro è un medico. Non tanto di successo, tutta questa ansia di dirsi di sinistra, cioè a momenti adesso deve prendere i voti, arriverà la testimonianza. Dovrà pure posizionarsi. Avrà militato tra i giovani pionieri. Non ti so dire dove è andato, però Milano, Milano è una tradizione socialista. Ma poi Tognoli, Tognoli è un grandissimo sindaco. Io della sindacatura di Tognoli mi ricordo che quando arrivò la notizia della morte di Sergio Ramelli ci furono gli applausi nell'aula consiliare. Io solo questo. Io invece mi ricordo avesse detto Pellitteri. Detto un sacco di cose belle Tognoli, è stato perfino Craxi a un certo punto, non dico che temeva il successo di Tognoli a Milano, era il classico uomo d'amministrazione che diventava poi politico. però bisogna vederlo. Vabbè, e vedremo, lo vedremo in azione. Va bene, e intanto sentiamo un po' che cosa ci propone questo lunedì mattina sulla metropolitana Pietrangelo. Ma è andato in metropolitana? No, non si sa, adesso lo sapremo. Ci sei andato, sì. Your heart is as black as night. Your lips may be sweet, such that I can't compete. But your heart is as black as night. I don't know why you came along in such a perfect time. But if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feelings are allora, wrong. Allora, Pietrangelo, e allora in metropolitana appunto c'erano in viaggio delle labbra dolci e poi un cuore nero. E labbra dolci era rapita da cuore nero, però era uno di quei cuori neri che a lasciarli andare in giro intorno fanno perdere la testa, danno un abbraccio forte, non ci si stacca più, ma il cuore nero è la notte. Dopodiché arriva il giorno e gli occhi raccontano un'altra storia. Ha chiamato Cristiano stamattina, Cristiano il Bello, e ha voluto questo brano apposta per Maddalena Robin ed un messaggio. Corri, corri dal tuo Cirano. La Cirano? La Cirano dove vai tu, Mario? Ma io me ne vado a fare un po' di politica europea. Vai a fare un po' di politica europea, sì. Ce n'è bisogno, perché di qui al 29 ne vedremo delle belle. Si apre una settimana molto interessante. Una settimana molto calda per l'Europa, sarà interessante, sì, vedere. Ci fate sentire anche della musica? Ah. Vabbè, questi gli Eagles. Prima che entri sull'Europa, sì, nel dettaglio, io ve lo dico un'Europa in generale, perché ho visto sul Corriere della Sera oggi un articolo interessante che racconta come funziona l'aggregazione del consenso nelle Paolo burocrazie. Valentino. Sì, di Paolo Valentino, di molto Paolo interessante. Valentino. No? Sì, sì, se sì. Noi siamo un po', se ho capito bene, assenti da queste cene di lavoro, di amicizia, dove però in realtà poi si tratta la famosa tessitura diplomatica. Vediamo se Calenda sarà capace di tessere, vediamo, diplomaticamente. Vediamo. Dice Renzi che è più incazzoso di lui Calenda, quindi sì, non lo sì so. Confermo. Ah, vabbè, vedremo. Confermo. Vabbè. Non ha un carattere, diciamo, di quelli proprio da diplomatico, però vabbè, può darsi, vedremo, che invece può si darsi riveli che... ottimo, chi, esatto, lo sa. E allora intanto tu che ci racconti di Schengen? Allora, no, e si apre una settimana molto molto importante. Sì. Oggi si incontrano a pranzo ad Amsterdam i ministri dell'interno dell'Unione Europea. E insomma devono decidere che fare con queste sospensioni temporanee di Schengen, quindi della libera circolazione. Le sospensioni temporanee in teoria sono massimo 6 mesi, però qua la cosa in realtà rischia di essere un po' all'italiana, sai che in Italia ciò che è temporaneo diventa permanente, sì. Quindi devono fare il punto, e il punto è molto semplice, diciamo, le posizioni sono che gli austriaci vogliono l'estromissione della Grecia, diciamo così, sì, dal trattato, perché è considerata incapace di controllare le sue frontiere. Per un certo periodo questa posizione è stata tenuta diciamo sotto traccia nelle sedi diplomatiche anche per l'Italia, aggiungo, poi per fortuna abbiamo recuperato bene con i controlli in mare eccetera, e in realtà dovrebbe passare, questo si dice, un accordo per rafforzare le frontiere tra la Macedonia appunto e la, sì, Grecia. Resta un grandissimo problema, che non ha soluzione per ora, se non appunto nella volontà di chi lo dovrebbe attuare, e cioè la Turchia. La Turchia in novembre ha fatto un accordo con l'Unione Europea, che di fatto gli ha affidato i suoi confini, le chiavi, certo, dei confini con la Siria e quindi poi anche dell'Europa di fatto, e ci costa 3 miliardi di euro. È un accordo che Erdogan ha chiuso con grande abilità. Il problema è che finora viene considerato inefficace anche da chi lo sostiene, per esempio dai tedeschi e non solo. Il problema alla fine è sempre lo stesso: chi paga? Chi paga? 3 miliardi l'Italia sostiene che debbano essere messi nel bilancio dell'Unione, Germania e altri paesi dicono no, poi dobbiamo contribuire. Diciamo nell'incontro del 29 un tema importantissimo sarà anche quello delle banche, cioè della Bank, sì, no, che forma avrà, se l'avrà. Finora tutte le carte ufficiali dicono di no. Tutte le carte ufficiali dicono di no. Vabbè, io vediamo. A quelle sto. No? Va bene, certo. E intanto comunque la tempesta delle banche non accenna ad attenuarsi, anche se è interessante vedere come ieri ad Arezzo in realtà alla manifestazione dei 5 Stelle c'erano poche persone, no? Ho letto dei resoconti. Dicevo, beh, che non accenna ad attenuarsi, e c'è chi prova ad affrontare questo tema in un modo completamente diverso. Ecco, Alberto Dalmasso, CEO e fondatore di Satisfy, ha prodotto una app tutta italiana che permette di mandare e ricevere soldi da un qualsiasi conto di una qualsiasi banca. È così, Dalmasso? Sì, è così. E come funziona? Funziona un sistema di pagamento usabile da chiunque abbia uno smartphone e un conto corrente. Si scarica la nostra applicazione gratuita disponibile per Apple, Android e Windows, e si collega l'IBAN del conto che si vuole iniziare a utilizzare. Per scaricare Satisfy sul mio telefono cosa devo fare? Va sull'App Store della sua piattaforma, App Store di Apple o Google Play di Android o Windows. E la compro. No, la scarica gratuitamente. L'applicazione è completamente gratuita, come è gratuito il servizio per i consumatori, che non devono mai preoccuparsi di avere nessun tipo di costo o commissione. Ecco, però anche il negozio, il bar dove per esempio io vorrei pagare, deve essere anche lui registrato. Sì, l'esercente si scarica la propria applicazione. Cioè può funzionare solo con chi ha la stessa app. Esattamente, come WhatsApp deve essere... Certo. Certo. E quanti sono i vostri clienti? Insomma, quante persone usano già Satisfy? Sono 17.000 persone che usano Satisfy più di una volta a settimana, su 35.000 che hanno già scaricato l'applicazione e usato. Lei ha detto che è gratuito, ma voi dove guadagnate? L'esercente paga una commissione di 20 centesimi per gli incassi sopra i 10 euro, e quello è l'unico nostro guadagno. Tutte le transazioni sotto i 10 euro sono completamente gratuite, quindi anche per l'esercente. Quindi non c'è nessun costo di commissione sostanzialmente? Sì, ma solo per gli incassi sopra i 10 euro. Con il contante, che se ci pensa... ogni volta che provo a usare la carta, sotto i 10 euro, 9 volte su 10 le dicono no, sotto i 10 euro è solo in contante. Noi sotto i 10 euro non abbiamo commissioni, proprio perché è su quelle transazioni che vogliamo portare comodità, vogliamo portare pagamenti elettronici. Ecco, ma insomma fate quello che le banche dovrebbero fare, transazioni di denaro a costo zero. Facciamo quello che le banche dovrebbero fare, ma non sono capaci. E le banche che cosa dicono? Ma le banche sono preoccupate da altro, tendenzialmente strutture grosse con molta resistenza al cambiamento, che quindi stanno ancora cercando di capire come rispondere all'abbassamento delle commissioni delle carte di credito. Ma nel frattempo vi hanno finanziate oppure sono antitetiche? No, devo dire che la risposta è stata molto positiva, nel senso che alcune banche ci hanno finanziate, hanno una parte del nostro azionariato, anche se piccola, però hanno finanziato per più di 3 milioni e mezzo di euro. Ma questo per far cosa? Per diversificare i loro rischi? Perché voi siete un po' alternativi però. Sì, diciamo che il commento è stato: noi non riusciamo ad avere questo grado di innovazione che un'azienda come la vostra può avere, ci crediamo, crediamo che il mondo dei pagamenti stia cambiando e la cosa migliore che possiamo fare è essere parte del progetto di questo cambiamento, insomma. Ecco, voi siete stati tra i 10 finalisti della Startup Italia Open Summit, però non avete vinto. Chi vi ha battuto? Ma diciamo un'altra azienda di un settore completamente diverso che ha sviluppato questa tecnologia per far guidare da solo un'automobile, un po' in contrasto con la Google Car. Senta, ci riproverete l'anno prossimo? Ma diciamo che come siamo stati selezionati quest'anno, che siamo appena all'inizio, ci aspettiamo l'anno prossimo con risultati ancora più grandi di fare la differenza. Bene, ma allora... più che i premi speriamo di dare un servizio veramente utile a milioni di persone. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Ci scrive Claudio D'Arezzo: caro Minoli, io c'ero ad Arezzo, abito in provincia, voto PD, quindi non sono di parte. Le assicuro che la piazza era strapiena, non creda sempre a quello che scrivono. Beh, vabbè, e noi diamo notizie di un testimone. Io non c'ero, avevo letto, Claudio lo smentisce e io cito. È interessante questo ragazzo, perché ogni settore in fondo nelle sue nicchie offre dell'opportunità, no? Perché insomma, là nel sistema bancario ci sono delle cose si possono fare. Un grande banchiere che non cito un giorno mi disse, qualche tempo fa, i giganti, i titani della rete si sono fermati sull'uscio della banca. Ma sono pronti a entrare. A entrare. Beh, noi anche entreremo nelle app molto presto con una rubrica specifica a partire dalla prossima settimana. Intanto, canzoniere. Salamino. La musica decide. Ha deciso la musica. Dall'amor che muove il sole e l'altre stelle, al riveder le stelle, ai 5 stelle, infine, che possono farne delle belle. Ho il timore che una parte di Magistratura Democratica stia mollando il Partito Democratico per abbracciare il Movimento 5 Stelle e diventarne così il braccio armato. Così durante una cena in un ristorante di Arcore ha detto Silvio Berlusconi. E la tenuta democratica dell'Italia a preoccupare Silvio Berlusconi, insomma, tra selfie, strette di mano, filmati, filmini e ciacole, sempre sotto la stretta osservanza di Francesca Pascale, la fidanzata, Berlusconi ha offerto ai giovani combattenti e adepti di Forza Italia più che una strada per vincere, un sottoscala per la salvezza. Cioè, il ragionamento è semplice. Tanto Renzi vince, stravince, vince pure San Milano, vincono dappertutto, e perciò ci sarà da restare in campo per cosa? Per far sì che il centrodestra diventi l'antagonista del centrosinistra in un eventuale ballottaggio elettorale. Dove? Eh sì, dappertutto, ovunque, perché altrimenti il sottotesto è già svelato nel sottosopra, altrimenti se al ballottaggio ci vanno i 5 Stelle, finisce tutto nel buco nero. Numeri. E lo so, questo è il ragionamento del povero Berlusconi, tutto va nel buco nero e tutto lì va a finire, compreso Renzi, che insomma... non è popolo, e tutto ciò che è popolo, tutto ciò che è pop, tutto ciò che è populista, dovendo scegliere tra Renzi e 5 Stelle, che fa? Il cavaliere dunque è agguerrito, è preoccupato, ha indicato una meta ai giovani, che è conquistare la rete di internet. Di quale partito? Di tutta Italia, tutto il mondo, tutto il... insomma, tutto fuori da quel buco nero, dice, dovete concentrarvi sulla rete internet. E allora ha detto Berlusconi, e infatti Mattia Feltri ha individuato sulla stampa qual è la prima meritoria azione di Berlusconi sulla rete. Dai, ha fatto sentire un sito che è www.baciodellabuonanotte.com. Questo è il primo per cominciare. Dopodiché c'è, vi segnalo, una bellissima intervista oggi di Vazzanicchi sul Libero. Molto bella e simpatica. Oltre al discorso di magistratura democratica dà una notizia. Bene, dice Sanremo è un covo della sinistra. 8-0-0. Che è vero, lancia Daniela Santanchè, sindaco di Milano. Dopodiché a Berlusconi dice questo. La mia solitudine. .00240024 numero verde 349-238-6666 SMS pubblicità. Mix 24. Canzoniere. Improvvisamente la porta del nostro appartamento si aprì. E sulla soglia si disegnò una vecchia conoscenza, Monsieur G, prefetto della polizia parigina. Gli demmo cordialmente il benvenuto, tutto sommato era un brav'uomo il prefetto. È vero che alcuni lati del suo carattere non piacevano né a me né a Dupin, ma non mancava di alcune buone qualità. E del resto non lo vedevamo da qualche anno. 800240024 numero verde 349-238-6666 SMS. L'andamento complessivo della nostra grande produzione industriale non deve essere ostacolato dal comportamento egoista di uno sparuto ma pericoloso gruppo di imprenditori che pensano soltanto a realizzare eccezionali profitti. Costoro continuano a curare i propri affari come se niente fosse. Sparuti ma pericolosi gruppi di industriali. Così il presidente Roosevelt nel novembre del 41. Dopo pochi giorni, il 7 dicembre, l'America entra in guerra contro il Reich. E allora il monito contro chi trae profitto da rapporti commerciali con il nemico si fa più severo. Le industrie che dal 1933 fanno affari con Hitler si chiamano Standard Oil, General Motors, IBM, Ford. Forse senza questa alleanza economica la Germania non avrebbe potuto scatenare la Seconda Guerra Mondiale. Gli amici americani di Hitler, l'ultima verità sul nazismo. Segreti, rivelazioni, documenti. Qui a Mix 24, i gialli della storia, dopo il giornale radio. Ecco, questa è una storia davvero incredibile, abbastanza inedita. Mario, mi hai fatto vedere un grafico impressionante. Purtroppo non lo possiamo far vedere in radio, ma me lo racconti in due parole. Sì, no, è l'evoluzione dei cosiddetti NPL, no? Non performing loans, cioè, che sono insomma, i crediti in sofferenza. I crediti in sofferenza che dal 2012 ad oggi in Italia hanno avuto un andamento esponenziale, oltre i 300 miliardi, mentre in Francia, Germania e Spagna sono sostanzialmente calati piano piano. E quindi non e è sono vero... a un livello, sono un livello decisamente e quindi non molto è vero più che basso. Ci conviene fare un cambio del sistema bancario italiano con quello tedesco. No, casomai che ci converrebbe. La vulgata è sempre quella di dire che quando sappiamo le cose con certezza proviamo a dire. Però i numeri sono numeri. Sono impressionanti. Ecco. Sì. Comunque, c'è qualche telefonata per il canzoniere? Vogliamo risentirlo un attimo? No? Non si può risentire, la tecnologia si è impallata e allora, adesso, sì? No? Allora andiamo, ce l'abbiamo, cosa abbiamo? Improvvisamente la porta del nostro appartamento si aprì e sulla soglia si disegnò una vecchia conoscenza, Monsieur G, prefetto della polizia parigina. Gli demmo cordialmente il benvenuto, tutto sommato era un brav'uomo il prefetto. È vero che alcuni lati del suo carattere non piacevano né a me né a Dupin, ma non mancava di alcune buone qualità. E del resto non lo vedevamo da qualche anno. 800240024 numero verde 349-238-6666 l'SMS per chi avesse indovinato. E intanto adesso col professor Roberto Bernabei commentiamo come sempre le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. New England Journal of Medicine, ottobre 2015. La Società Americana per il Cancro pronuncia le linee guida per l'esecuzione della mammografia in donne con un rischio medio. Il cancro della mammella, come sapete, è il cancro più diffuso nelle donne. E dal 2003 non ci avevamo più linee guida che ci indicassero quando fare la mammografia. La American Cancer Society le ha pubblicate, sono state recensite da JAMA, e queste raccomandazioni sono divise in due sezioni: le raccomandazioni forti, quelle cioè assolutamente da seguire, e quelle qualificate, che vale la pena seguire anche se non hanno la importanza di quelle classificate come forti. E allora quali sono? Tra i 40 e i 44 anni bisogna cominciare con una mammografia annuale, ma questa è un'opzione, cioè si può fare così come non fare, anche se la raccomandazione non è forte ma è qualificata. A 45, e la raccomandazione è forte, si comincia lo screening. Bisogna fare la mammografia dai 45 ai 54 annuale. Sopra i 55 anni bisogna fare uno screening con la mammografia ogni due anni, con l'opzione di farlo annuale. Dopo i 55 si continua lo screening sempre ogni due anni se la salute in generale è buona e se l'aspettativa di vita è superiore ai 10 anni. Questo vuol dire che se si suppone di averci un'aspettativa di vita superiore ai 10 anni, anche se si hanno 80 anni, si continua a fare la mammografia perlomeno ogni due anni. Queste sono le linee guida che sono desunte dal lavoro di clinici, specialisti di sanità pubblica, persone che sono esperte nel ramo e che credo valga la pena di seguire con attenzione. Gloria Guerrera, che cosa ci presenta stamattina per chiudere? Stamattina per chiudere ascoltiamo Quale allegria di Lucio Dalla. Perché? Perché è molto triste delle volte quando ti ho cercata tutta la vita, non ti ho incontrata e non ho avuto nemmeno il piacere di lasciarti. Perché? Mamma mia, che okay. Allegria. Okay. Vai, vai con la canzone. Hai bisogno di consolazione. Quale allegria se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via. Quale allegria, da da di da. Quale allegria se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma non so più dove cercarti. Quale allegria. Quale allegria senza far finta di dormire con la tua guancia sulla mia, sapere invece che domani, ciao, come stai, una pacca.